Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Natale Farinetti di Tosca, 60 anni Langarolo di Alba, sposato con tre figli, imprenditore, fondatore della catena Italy. Per molti un genio che reinventa continuamente il futuro, per altri è un furbo buono che con abilità è cresciuto tra rapporti privilegiati con sindaci rossi e le cooperative. Una cosa però è certa, ha fatto esplodere il Made in Italy del cibo nel mondo. Al meeting di Rimini ha detto: in questi sei mesi il governo Renzi ha fatto tre o quattro mosse giuste. Farinetti, quali? Beh, la principale è quella degli 80 euro, diciamola così volgarmente. È stata una grande mossa. È la più importante? Assolutamente sì, perché è rivoluzionaria. È la prima volta dal dopoguerra ad oggi che si fa un grande gesto di ridistribuzione della ricchezza che serviva in questo momento. Però non ha dato nessuna scossa ai consumi. Lo sapevo, lo immaginavo. Ha dato una grande scossa alle famiglie che hanno potuto stare un pelino più tranquille. Non si può immaginare che un'operazione da 11 miliardi l'anno cambi la vita di un paese che ha 2.200 miliardi di debiti. Non è demagogia politica per prendere voti? Assolutamente no, è stato un gesto potente. Io come imprenditore potevo pensare che mi sarebbe piaciuto più li avesse messi sul diminuire il costo del lavoro, però come persona che la pensa in una certa maniera ho preferito questo. Senta Farinetti, lei ha anche detto bisogna però che Renzi dia ancora due o tre bastonate grosse, quali? Pubblica amministrazione, se vogliamo diminuire questi 2.200 miliardi di debiti dobbiamo diminuire la spesa pubblica, e per diminuire i grandi costi della pubblica amministrazione bisogna dare qualche bastonata, ci deve essere qualcuno che si lamenta, dalle cose inutili, bisogna che in ogni luogo della pubblica amministrazione ci sia qualcuno che censisce i luoghi inutili, cioè, e li elimini. Bisogna far piangere qualcuno. Ma è naturale, siamo come una società che ha una volta e mezza i debiti rispetto ai ricavi e dove i soci bisticciano loro. Ogni categoria pensa che la colpa sia degli altri di questo debito. Da quello. E nessuno vuol fare sacrifici. Senta, per tutti, oggi lei è un grande imprenditore, è un fatto, amico di Renzi. Vi scambiate ancora gli sms alle 6 del mattino come mi diceva l'anno scorso? Sempre di meno perché lui è molto preso, io anche, comunque ha tanto da fare, lo capisco. Parlate meno? Sarà 2-3 mesi che non lo sento. Ecco, però D'Alema, l'altro ieri, ha detto che lei è andato da lui per dirgli che è deluso da Renzi, è vero? Beh, io è vero che l'ha detto, l'ho letto su Repubblica, no, non che è vero che Repubblica lo scrive. Ma lei gliel'ha detto o no? Ma no, assolutamente non è mai no. Andato da D'Alema? Ma mai, io D'Alema l'ho visto l'ultima volta 6 mesi fa a San Patrignano, abbiamo parlato di vino, lui ultimamente parla molto di vino e tra parentesi fa un grande vino, sì. È un ottimo produttore. Vabbè, quindi è una balla di D'Alema? Guardi, non credo, è una colossale, ma non ricordo, è una balla colossale magari di qualcuno, mi sembra strano che D'Alema dica una balla del genere, perché sarebbe scoperto dopo un attimo. Adesso, è talmente per esempio, grosso. Scoperto adesso. Ma magari io penso che non l'abbia detto, è troppo grosso. Quindi è la balla di Repubblica? No, di Repubblica. Beh, magari qualcuno l'ha detta. Qualcuno l'ha raccontato Repubblica, penso. Repubblica non racconta balle come altri giornali. Senta, all'inizio il cerchio magico dell'Italia che produce e che esporta era tutto con Renzi. Adesso un po' meno. Perché secondo lei? Perché è naturale che quando uno governa e sta governando un paese che, ripeto, ha 2.200 miliardi di debiti e che deve cambiare tanto, in fretta, come vuole lui, deve scontentare qualcuno e qualcuno si sente scontento e protesta. E poi c'è un po' nel DNA di noi italiani di non dare tempo a nessuno di fare le robe, e quindi tendiamo a lamentarci. Senta, Diego Della Valle, per esempio, che era un suo amico, è stato un grande sponsor, adesso lo attacca pesantemente. Cosa si è rotto fra di loro per quello che sa lei? Niente, non posso solamente saperlo, l'ho trovato un po' esagerato. Non sa perché hanno litigato? Non ho la minima idea, è andato giù pesante. Beh, forse un po' troppo, non lo so. Io apprezzo molto Diego, sono anche amico suo, è ingambissimo, è ingambissimo. Però gli suggerisco di non fare la politica, secondo me col suo carattere dopo 3 mesi, lui dura molto meno, li manda tutti a stendere. Dura meno di Renzi. Ma non per demerito, perché si incazza lui. Sì, sì. Della Valle però dice, Renzi e Marchionne sono due sola alla romana. Insomma. Si dice anche piemontese. Anche piemontese, sì. È vero. Ma sono il nuovo tandem Renzi e Marchionne? No, assolutamente, però Matteo tiene conto del fatto che va in America e c'è un italiano che ha fatto una cosa, che è riuscito a comprarsi la Chrysler. Poi è stato anche furbo perché ha comprato con soldi magari anche un po' degli altri, è stato un genio assoluto e ha salvato la Fiat. Io salvata la Fiat? Beh sì, credo Minoli che lei si ricordi perfettamente quel periodo. Era fallita. La, non solo salvata, e adesso la sta rilanciando su idee che io ritengo fantastiche. Tipo cioè, Maserati, Alfa Romeo. Sa che io sono stato grugliasco, sa perché ammiro Sergio Marchionne? Ah. Sono stato grugliasco a visitare questo stabilimento della Maserati e ho visto 2400 operai che lo abbracciavano. E sa perché? Perché questi lavoratori vedono un futuro, vedono una speranza, vedono gli ordinativi, cioè, perché alla fine l'unica roba che conta solo quello. È quello, perché hanno fatto due grandi macchine che piacciono al mondo. Ma non è Marchionne, che quello stesso Marchionne che diceva che Renzi era il sindaco di una piccola città povera come Firenze? Passato tutto. Vede che anche lui, come Della Valle, ha cambiato idea, ma al contrario. Altro sport italiano diffuso. Cambiare idea al contrario. Ma va bene, senta, va bene, siamo dinamici. Senta di Marchionne cosa ha detto un manager importante, un ex banchiere come Corrado Passera. Ma Marchionne fa del bene o del male all'Italia? Complessivamente male. Perché? Guardi, i non risultati della Fiat Auto, gli impegni non mantenuti, la ritirata dall'Italia... Tutto sempre giustificato in giro per il mondo, sputtanando il nostro paese, alla fine porta a un risultato pessimo nei confronti dell'Italia. Cosa pensa di Passera? Con toni molto più lievi e senza parolacce sono completamente in disaccordo. A lei piace Marchionne, quindi? Molto. Perché? Per quella roba che ha detto? Per quella roba, perché alla fine non ci sarebbe più un posto di lavoro nella Fiat se non arrivava lui. È stato veramente un fenomeno. Poi è il suo carattere, il suo modo di fare, ma ognuno ma di noi. Tutti. Ma se la smettessimo di guardare la parte brutta delle persone e guardare solo quella bella, sa che miglioreremmo tutti. Quello sicuro. Senta, ma i poteri forti a cui, contro i quali si scaglia Renzi nei momenti di difficoltà, ma esistono sti poteri forti? Secondo me sì. Sì, chi sono? Sono... quel 10% di imprenditori che non si impegnano tanto mentre il 90% lavora giorno e notte, quel 10% di lavoratori che non hanno voglia di lavorare mentre... E sono poteri forti? Ci arrivo Minoli. Mentre il 90% dei lavoratori si impegna da morire, e soprattutto quel 10% di media che non dicono la verità, pensano solo ai titoli e cercano visibilità attraverso notizie false. Ma i media come questo sono è un adesso? Problema perché sa perché è un problema? Perché essendo passati da online anche giornali che non vendono molto alla fine vanno nell'etere e tutti leggono delle notizie false, sono diventati poteri forti. E questo è un problema, perché alla fine magari inducono anche persone per bene a pensare male, ha capito? Quindi i poteri forti sono i deboli che danno false notizie. Non sono i deboli, sono le persone non per bene in generale, a cui interessa soltanto un certo tipo di obiettivo. Per gli imprenditori far profitto e basta, per i lavoratori prendere lo stipendio e basta. Sto parlando di minoranze, sto parlando di 10%. Sono poteri forti. Per i giornalisti, perché fanno tanta cacciara, e quindi parlano da pazzi. E quindi il difetto sta nei media. I media, quel 10% dei media, oggi ha un potere assolutamente abnorme rispetto a quello che meritano. Quindi non valgono. Questo è un problema, perché riescono a modificare l'opinione pubblica. L'opinione pubblica crea la coscienza civica. Un paese senza coscienza civica non può funzionare. E quindi determinati media che scrivono cose più false. Quali? No. Non mi faccio fare i muggiti di Passera, non per piacere. Muggiti. Va bene, senta. Sull'articolo 18, dopo la vittoria a mani basse 80-20 dell'altro giorno di Renzi, è finita la battaglia? Ma io non sono molto pratico dei casini interni dei partiti, sì. Quindi non so dirle, però immagino in generale che all'interno del partito del centro-sinistra italiana ci sia una sfera molto più favorevole al cambiamento anche con decisioni forti, ed una sfera che invece preferisce non cambiare. Senta, comunque, lei conosce bene Renzi, adesso lo vede un po' meno, ma lo conosce bene. La sua qualità maggiore qual è? Never, never, never give up, mai arrendersi. È il difetto? E in Italia funziona. È il difetto? È un fiorentino, è di Firenze, quindi ogni tanto esce un po' fuori, si arrabbia un po' tanto. Quindi dire, come ha fatto lui a Letta, per esempio, tranquillo, puoi sostituirlo alla velocità della luce, insomma, un po' di stile è mancato. Può darsi. Almeno quello? Può darsi. Ha messo davanti i risultati da ottenere che allo stile al Galateo. Risultati da ottenere che bisogna ottenere. Lui pensava, si è reso in quel periodo, si è reso conto che se andava avanti quel governo lì le cose non sarebbero cambiate, ha agito un po' forte. Senta, dopo tanto consenso però, quasi acritico da parte dei media, adesso per esempio abbiamo visto il Corriere della Sera attraverso il suo direttore lo attacca pesantemente. Cosa vuol dire secondo lei? Vuol dire qualcosa o no? Di sicuro vuol dire qualcosa che non ho capito, perché conosco bene Ferruccio De Bortoli, conosco il suo stile di altissimo gentleman. E è andato giù pesante. E ne una spiegazione non se l'è data? Sta roba sulla massoneria, eccetera. No, non riesco a darmela, non riesco proprio. C'è qualcuno che dice che l'ha scritto per il suo padrone di minoranza, che sarebbe Della Valle, ma non credo, Ferruccio è altissimo. Probabilmente la pensa così, però se lei va a rileggere il fondo di Ferruccio, alla fine il finale è come nei film di Sergio Leone, è positivo. Sì. Cioè alla fine dice che lui rimane una speranza grande. E dice una roba molto diversa da Della Valle. Sì, secondo me succede che in un paese come questo, in cui bisogna fare dei cambiamenti veramente potenti, in questo momento lui è l'unico leader politico che può farli. Però molte critiche che fanno anche amici di Renzi, persone che lo sostengono, dicono che Renzi non è capace a fare squadra. Cioè, fa su tutto me. Cioè, è uno proprio di quel genere lì. Sono critiche vere o strumentali, secondo lei? No, sono abbastanza vere. Lui tende ad accentrare e deve... Ma io, conoscendolo... È difficile governare senza la squadra. Senza, sì. Ma infatti, la squadra, secondo me, non è male. È anche buona. No, parliamo del governo. Sì, anche buona. Il problema è che è vero, che magari, da quello che ho capito, non li sente molto, agisce molto da sé, ed è una roba sulla quale, secondo me, si correggerà in futuro. Perché ha della bella gente intorno. Cioè, dopo sei mesi il ministro del governo, il ministro che gli piace di più qual è? Posso dirne due, eh? Maurizio Martina all'agricoltura e Dario Franceschini al turismo. L'agricoltura un po' interessato, roba sua. Per quello potrei essere molto critico. Finalmente abbiamo un agricoltore a fare il ministro dell'agricoltura, giovane, dinamico, ha già fatto due o tre cose buone e secondo me ne è in serbo qualcuno potente. Perché anche lui ha fatto due o tre mosse fantastiche, tipo quella per esempio di aprire ai finanziamenti dei privati, tipo quella di smetterla di dire che a 65 anni non si paga più il biglietto. Io sarei contento perché tra 5 anni non lo pagherei più nei musei, ma è stupido dire che a 65 anni non si paga. Ha aumentato dell'11% gli incassi ad agosto, sono dati importanti. È un segno. Gli ho chiacchierato due o tre volte con lui, ha le idee abbastanza chiare su dove intervenire. Senta, è quello che gli piace di meno, uno ci sarà. Sa che faccio fatica perché non, no, ma no, buone. Le spiego Minoli, ho smesso di giudicare le persone senza conoscerle. Questo mi sembra diverse. Un punto d'arrivo saggio. Per esempio conosco Del Rio, un altro che mi piace da pazzi. Del Rio è grandissimo, però si parla di un conflitto fra Del Rio e Renzi. Io non lo so perché non ho potuto chiederglielo, però mi sembra stranissimo. Proprio due fratelli erano, io non credo mica. Senta, Farinetti, lei dice l'Italia ha 5 vocazioni: agroalimentare, moda, turismo, patrimonio artistico, industria manifatturiera. Basta avere le persone giuste in queste aree, il gioco è fatto. Adesso sono passati 6 mesi, Renzi le ha messe le persone giuste? E come l'ho appena detto, ha messo Martina che è la persona giusta, Franceschini anche, per le altre aree non saprei dirle perché non so giudicare la Guidi o gli altri perché non li conosco. Quello che voglio dire è che non ha ancora fatto le mosse importanti e giuste, spero che le faccia, perché c'è una sorta di priorità. Quale in sarebbe questo la paese? Prima mossa che gli consiglia di fare? Di defiscalizzare, di abbassare le tasse generali alle imprese che incrementano in quell'anno le proprie vendite all'estero. Quindi, cioè chi esporta deve... Chi esporta di più, sì, paga, di meno, paga di meno per far venire... Guardi, la leva fiscale è l'unica roba seria che i politici devono usare per cambiare gli scenari, ed è quella che è democratica. Chi è incentivato, pensi a quanti nel mio mestiere che fanno supermercati eccetera non sono mai andati all'estero, dal giorno dopo andrebbero. Certo, lei intanto è un campione appunto nel vendere cibo made in Italy. Il segreto, in una parola, qual è? La narrazione. Andare a raccontare la meraviglia della nostra biodiversità agli americani, ai turchi, agli arabi. È fantastico. Ecco, lei dice che contro la crisi, però bisogna dare dignità ai contadini. Lei come fa? Bisogna partire dalla terra madre. Bisogna che questo prezzo finale sia meglio ripartito. Carlin Petrini dice giusto. Quindi bisogna pagare meglio gli agricoltori, ma per pagare meglio gli agricoltori bisogna vendere a un prezzo più elevato al pubblico lo champagne. O meno intermediazione. Lo champagne paga le uve ai contadini 6 euro al chilo, il prosecco lo paga 1,50. Perché? Perché il prosecco costa 5 euro al pubblico, lo champagne 50. Per vendere un prodotto più alto, a un prezzo più alto nel mondo, bisogna saperlo narrare. Pensi cosa hanno fatto i francesi. francesi con lo champagne. Lei non immagina niente nella vita che riguardi l'amore, è l'anniversario che non gli viene in mente di aprire una bottiglia di champagne. Senta, ma per fare questa, questa rivalutazione della dignità dei contadini bisogna essere contro le OGM? Anche. Perché? Perché le OGM gli toglie il seme. Il seme è la loro produzione primordiale. E se tu gli togli la parte iniziale del loro mestiere, devi andare dalla Monsanto a comprare il seme, gli togli dignità. Senta, ma per chi fa industria alimentare come lei, l'Expo avrebbe dovuto essere un'occasione d'oro. Lo sarà? Lo sarà, e sarà molto perché più d'oro sarà? Di quello che immaginiamo. Sì? Perché verranno tanti, verranno molti di più di quelli che ci aspettiamo. Senta, però... le gare, per esempio, per gestire le mense, i ristoranti vanno deserte. Perché? Intanto mi sembra che abbia vinto la CIR, quindi che la CIR faccia la parte, le prime, sì, ma perché? Perché ma si lei fa l'ha fatica. Fatto No, io ho fatto una cosa molto più importante. Sono partito anni fa, ho preso un padiglione che pago e nel quale faccio i ristoranti della biodiversità e narro la biodiversità. Sale quale sarà il titolo? The answer my friend is blowing the wind. Dimostrerò che la nostra posizione geografica, i venti di questo mare buono e chiuso, sono quelli che ci fanno avere prodotti più biodiversi al mondo. Sarà un divertimento unico. Senta, ma si aspettava tutti gli scandali così forti come quelli che si sono susseguiti fino adesso? Assolutamente no, perché io, non essendo malizioso, ragiono col mio metro e tutte le volte che leggo di uno che ruba mi casco dal pero. Ma cosa si è sbagliato? Com'è che è capitato? Beh, è capitato che se si è sbagliata la mentalità del nostro paese, non ci sentiamo rivolti verso il bene pubblico come quanto lo siamo nei privati. Abbiamo sbagliato le persone, evidentemente. Io non li conoscevo, non conosco nessuno di questi. Però io quando leggo che mettono qualcuno in galera perché ha rubato, a parte che magari in certi casi è ancora da dimostrare, certo, sono contento. Casi, certo. Io sono contento, non è che dico, ecco tutti loro, dico che bello, uno che rubava che non c'è più e ne mettiamo un altro. Ecco, ma... bisogna reagire in modo positivo. Però lei crede veramente che verranno i 20 milioni di turisti previsti? Ne verranno di più, secondo me ne verranno 30, 20 milioni di italiani. L'aspetto qua dopo. Certo, volentieri, mi richiami, magari sbaglio. Secondo me verranno, io tutta la vita che sbaglio. Non mi pare. 20 milioni di italiani e 10 milioni di stranieri. Guardi, se lei va a vedere i festival. Ah, 20 milioni di italiani e 10 milioni di stranieri. Vabbè, ok. No, loro oggi dicono. Prima sembrava che i 20 milioni erano stranieri. No. Loro prevedono 23 milioni in totale, 16 e 7. Sì. Io prevedo molto di più. Secondo me sarà un grande successo. Senta, ma i bronzi di Ria ce li avrebbe portati a Milano lei? Ma di sicuro. E magari li avrei anche messi in mezzo al Grande Lago al posto di quella statuona che costa un sacco di soldi. Renzi ha detto che non bisognava portarli a Milano. Sbagliato. Invece. Sbagliava. Senta, l'amministratore delegato Sala dell'Expo, qui da noi l'altra settimana, ha detto siamo in ritardo con la vendita e con la produzione turistica. Cosa dobbiamo fare per recuperare? Dobbiamo far diventare facile visitare il nostro paese, che invece è complicato. Lo sa che le Canarie, che hanno 1430 km di costa, fanno 75 milioni di pernottamenti. La Sicilia, che da 1428 ne fa 6 milioni di pernottamenti. È più facile andare alle Canarie, è più complicato andare in Sicilia. Dobbiamo prendere gli uomini migliori che abbiamo e metterli all'accoglienza. Ma quelli qualcuno deve metterli. Sì. Chi li mette? Secondo me bisogna mettere un grande capo al turismo, al Made in Italy, dirigente. I ministri sono ottimi. Posso fare un nome? Faccia. Abbiamo Luca di Montezemolo che sta per essere... è a spasso, diciamo. A spasso. Secondo me lei non è male. Buone. Ma perché lo conosco, è molto stimato all'estero. Sì. Secondo me è una grande bella immagine per Senta, Farinetti, ma quanti posti di lavoro possono creare? Si possono creare puntando sul Made in Italy del cibo, cultura e turismo? In fretta, entro 3 anni, 2 milioni. Se raddoppiamo il numero di turisti in Italia, cioè passiamo stranieri, da 47,5 a 100, più o meno, un po' più della Francia. La Francia ne fa 80. Se riusciamo a passare da 33 milioni di esportazioni di agroalimentari a 70-80, quello che ci meritiamo, i numeri della Francia, sì. Intanto quanti giovani lavorano da lei? Guardi, in totale sono 4.000, di cui circa 2.000 in Italia, e il 95% sono ragazzi, giovani. Sì. Senta, lei però è accusato di essere una sorta di sfruttatore dei giovani che lavorano sottopagati, precaria vita, è così? Sì, accusato da quel 10%, anche meno da quella parte dei media che dicevo prima, che cercano il titolone. Titolone. È vero o no? Beh, no. Totalmente falso. Ma è una roba veramente grave, perché i numeri dicono, io credo che siamo tra le aziende in Italia che cerca di trattare meglio i propri ragazzi. Ma è vero che a Firenze sono 4.000, è stato contestato oppure no? È assolutamente vero, 3 ragazzi su 97, tre. Tre, che non erano stati confermati, hanno fatto uno sciopero insieme ai Covas. Erano in tre, gli altri 94 hanno lavorato, alcuni media, quelli che dicevo prima, hanno scritto i lavoratori di Firenze hanno vabbè scioperato. Quelli che parlano male di lei sono cattivi, diciamo. Non sono cattivi, cercano, sono due livelli. Uno che chissà perché pensa di danneggiare Renzi parlando male di me, secondo me è una follia. E gli altri sono, cercano visibilità. Sa qual è la tecnica? È la visibilità. Parlo male di Minoli, che è una persona visibile, la gente clicca, va su Giovanni Minoli e legge me. Poi magari torna a rileggere il mio blog. Senta, ma è vero che lei pensa che i sindacati così come sono oggi sono uno strumento medievale per difendere i diritti dei lavoratori? No, non lo penso affatto. Penso che c'è stato qualche gesto medievale, così ho parlato, ma non certo i sindacati. I sindacati sono un'organizzazione che è assolutamente fondamentale nella democrazia, quindi non possiamo assolutamente fare a meno di loro. Devono modernarsi? Ma intanto devono anche loro dimagrire un po', come deve dimagrire la Confindustria, come devono dimagrire le corporazioni. Non ci deve essere più intermedi. Asso Bagno, Asso Bidea, Asso Turca, Asso qui, Asso là. Siamo troppo. Abbiamo più gente che ci rappresenta di quelli che lavorano. Senta, intanto con le sanzioni nel rapporto tra l'Unione Europea e la Russia ci rimettiamo per adesso solo noi. Cioè soprattutto il settore agroalimentare. Bisogna cancellare le ste sanzioni, Cioè, ho l'impressione che ci sia stata una scarsa diplomazia di basso livello in questo. È un danno enorme. Perché il Made in Italy esce sconfitto da questa cosa, perché poi intanto si arriva da un'altra parte. Assolutamente e sì. E nessuno lo difende. No, ma ci stanno provando, ma lo difendono male. Va aggredito questo problema perché è un problemone. Però... Insomma, vanno tolte le sanzioni o no? Si figuri. Lei pensi che per me, per esempio... Sì. Ah no, le sanzioni verso la Russia, questo non lo so, un gesto di politica alta che non mi copre. Sono molto interessato a che invece si tolga l'embargo verso i nostri prodotti, perché noi apriremo a giugno un grande Italia e Mosca. Sì, se speriamo. Glielo fanno aprire. Speriamo. Con questi chiari di luna mi sembra difficile. Senta Farinetti, lei ha detto i soldi che servono per le riforme vanno trovati nelle pensioni. È convinto? No, non solo nelle pensioni. Io penso che... Però lei ha detto che bisogna mettere un tetto di 3.000 euro. Tutte le categorie devono fare un sacrificio. No, cioè, stiamo fallendo come Italia. E allora, siccome io penso, primo, che 3.000 euro sono più che sufficienti per vivere dignitosamente, per vivere dignitosamente dopo una vita che lavori, sì. Secondo, lei sa matematicamente che il 90% di quelli della nostra generazione che vanno in pensione, ci stanno andando, non hanno, ed è dimostrabile matematicamente, versato i contributi per quelle cifre che beccano. Ma quelli molti che invece di meno, li hanno versati... Quelli li lasciamo, togliamogli degli altri. E se che sono versati più di 3.000 che hanno versati, si sono pagati la pensione in anticipo? Non è così. Le dimostro, ci sono molti che l'hanno fatto. Pochissimi. Le dimostro. Per via della legislazione che c'era in quel tempo, la stragrande maggioranza becca di più di quello che ha versato. Minore. Questo non sono sicuro. Le manderò una mail. Il capo dell'INPS a raccontarci. Grazie. Senta, lei vive, me l'ha detto, con 3.000 euro al mese, non c'è problema. Ma una bella patrimoniale sui patrimoni degli imprenditori, non servirebbe anche quella? Beh, è una di quella parte di sacrifici. Dato che tutti devono fare sacrifici. Sono d'accordo. È una di quella parte di sacrifici che devono fare. La nostra categoria di chi sta bene deve farlo. Ci deve essere un bel programma. Prima, certo, sia per i pensionati, che per gli imprenditori, che per i lavoratori, che per i magistrati che devono fare meno ferie. Troppe ferie, non lo so. No, sono caduto dal pero, non lo sapevo. Non sapevo, c'è 45 giorni. Non sapevo. Ma questo accordo Renzi-Berlusconi, secondo lei, fa bene all'Italia oppure no? Non c'è un accordo diretto, credo, è uno dei tanti, deve avere un accordo. Lui ci vorrebbe farlo anche con Grillo, il problema è che Grillo non lo fa. Bisogna accordarsi con tutti. Per le riforme costituzionali c'è. E ci deve essere, insomma, Berlusconi rappresenta ancora 4 milioni di voti, 5 milioni, era 12, è andato a 7,3, adesso è 4. Comunque quei 4 milioni li rappresenta, bisogna. Senta, le riforme costituzionali su cui c'è l'accordo, però adesso sono scivolate poi dietro nell'agenda, si faranno o no? Bisogna farlo, ma soprattutto relativamente al fatto di fare una legge elettorale e di dimagrire il paese. Sì. E io credo che le faranno. Però è tutto più lungo in Italia. È tutto più lungo. Quindi non c'è questa velocità ho che scoperto, sperava. Ho questi 100 giorni che sono diventati 1.000 sono un segno. E poi, e sono un segno certo, sono un segno che ha capito, è arrivato lì con tutta la sua volontà, regia, poi ha capito che è complicato, ma questo il ragazzo lo ammette. Senta, le faccio un'ultima domanda, a quanto le dà le elezioni in primavera? Non mi intendo di politica in questo senso. Però è un cittadino consapevole. Pochissimo, secondo me. 10-15%. Grazie. Grazie a lei, Minoli. Mix 24. Mario, che titolo faresti in intervista di Farinetti? Beh, uno slogan, tutto molto italiano. Oscar butta la pasta. Oscar butta la pasta. E tu, Pietro? Bravo. Biodiversità di Passera in un muggito. È perché mi ha colpito questa idea dei muggiti di Passera. È vero, è stato della biodiversità conseguente. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno. Ancora metropolitana? Sì, metropolitana. Stamattina in metropolitana ho incontrato un esegeta, un traduttore di Shakespeare, uno molto bravo, attento, che fa l'insegnante. E poi subito dopo la mamma di un mio giovane amico, anche lei insegnante, che è venuta da lontano, si è trasferita a Roma per seguire questa stagione del precariato. E nelle tasche del mattino ho ritrovato quanta grazia, quanta forza, quanta importanza hanno gli insegnanti nel seminare nelle tasche di ogni mattino nei ragazzi la foresta futura. Nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino. Gliela faremo sentire al ministro della scuola questa, sì, questa importante osservazione la settimana prossima. Arpeggio di buttafuoco. Il peggio? Perché peggio? Arpeggio. Arpeggio. Che non è arpeggio, è arpeggio tutto attaccato. Che cosa bolle nelle pentole di Mario Secchi? China. Bruce Lee, che... No, Franco Franco. Vabbè, insomma, l'abbiamo presa in maniera ironica, siamo in Oriente, siamo in Cina, meglio Hong Kong. Che sta succedendo? Tu chiedono democrazia, va bene, questo non è una novità, è dai tempi di Tiananmen che si chiede democrazia in Cina, però non è facile, 1 miliardo di persone, solo che Hong Kong è un hub finanziario, così certo, si dice, una cosa un po' diversa. Un centro finanziario. Allora, finché era diciamo un protettorato inglese, la cosa ha funzionato. Poi è passato in mano cinese, ci sono state delle prime manifestazioni, poi tutto si è placato. Adesso di nuovo c'è la cosiddetta, il movimento, la protesta degli ombrelli. Ora c'erano gli ombrelli perché piove. Siamo alla radio, ma la stiamo vedendo in diretta. Beh, in questo momento sulla CNN, live, effettivamente. Live sulla CNN. Vai. C'è un bel movimento, casino, diciamo. Un bel casino, sì, diciamola sì. Tutta, eccetera. Però come si risolve? Non lo so, vediamo. Previsioni vostre, voglio capire da voi se secondo voi avrà un effetto reale oppure rientrerà a Minoli. Tu butta fuoco, beh, come pensi? Piazza Tiananmen, che poi ti ricorderai, non venne assolutamente recepita, ricordata all'interno della società cinese poco. No, però è interessante perché ho letto su Foreign Policy chi sono i protagonisti. Beh, la Federazione degli Studenti di Hong Kong, Occupy Central with Love and Peace, ovviamente, sì. Quindi guerra non ce n'è proprio, solo amore e pace. Un tal Benny Tai, che è un professore di diritto molto importante, un tal Chan Kingman, che è un sociologo. Vabbè, insomma vabbè, un po' di piritollame con gli occhi a mandorla ci sarà. Vabbè, spieghiamo una volta per tutti cos'è il piritollame. Gliel'ho detto ieri. Lo ridiciamo. È colui il quale col ditino alzato propone se stesso a parametro e giudizio del mondo e di ogni cosa, facendosi forza non tanto di solidità ma quanto di pensiero gassoso. Molto bene, quindi dallo stato solido allo stato gassoso. Vai con le bolle. Continuiamo perché andiamo un po' da noi, ma vediamo cosa succede. Beh, non non è proprio la carica dei sette in bocca, va leggere, no. Ma insomma, ci può stare, no? Era meglio morire da piccoli, no, è meglio vivere e soprattutto a lungo e combattendo. Allora, noi abbiamo uno scenario abbastanza interessante. Tu sai che domani si riunisce la BCE? Certo, naturalmente. E si riunisce a Napoli. È una scelta fatta tempo fa, era in calendario. Rientra nel semestre europeo, no? No, la BCE sceglie varie sedi, diciamo, dove riunirsi. La scelta di Napoli, secondo me, è molto importante e significativa per molti motivi. 18 banchieri centrali saranno là, non ci saranno decisioni, in realtà, che questo almeno è previsto, che cambieranno lo scenario. Però lo scenario è molto interessante e anche un po' preoccupante. Le note di aggiornamento del DEF li aveste viste, confermata la recessione, disoccupazione giovanile in aumento. Ci sono delle strane voci, ne abbiamo dato un po' conto, io vorrei rifare il sunto di questo, che parlano di politiche coordinate, cioè per noi, per l'Italia. Siamo la troica, insomma. Qualcosa che gli assomiglia. Insomma, ci dicono che da soli non ce la faremo, che bisogna varare un piano d'emergenza con l'Italia. Io sto monitorando con grande attenzione tutto quello che si dice. Consiglio vivamente di leggere in questi giorni Wall Street Journal e il Financial Times e un sito che si chiama Euro Intelligence, che riporta delle cose molto interessanti, perché tra quelle righe emerge quel che davvero pensano di noi e soprattutto cosa vogliono fare di noi, commissariarci. E io non me lo auguro, anzi no. Mi attendo che il governo, una reazione forte, il governo di Matteo Renzi vari una legge di stabilità seria, molto seria. Sara Tardelli, la quota rosa. I coccodrilli, gli elefanti, l'aquila reale non ci saranno più. E chi dice adesso ai vostri figlioletti che già loro, o forse se gli va bene i loro figli, non potranno più vedere tanti meravigliosi animali? E chi gli spiega che se muoiono gli animali va in tilt tutto l'ecosistema? Il Living Planet Report fa il punto sullo stato di salute del nostro pianeta e prova a spiegare agli adulti che il pianeta sta molto male. Le vittime per adesso sono i predatori, gli animali grandi, no? Come le tigri, gli elefanti, le balene. È in atto la sesta estinzione nella storia della Terra, con la grande novità che a causarla siamo solo ed esclusivamente noi esseri umani. Ma in fondo che problema c'è? Ormai su internet si trova tutto: sesso, amicizia, vestiti e perché no, anche gli animali. Certo, vuoi una tigre? Te la procuro subito. Salamini! Civiltà dentro Forza Italia. Allora, prove di avvicinamento del terzo tipo. Cioè? Francesca Pascale, fatto da madrina al Gay Village. E Vladimir Luxuria, quasi un pensierino lo fa. Sì. Dice, Forza Italia è meglio, grazie alla signora Berlusconi, di una certa sinistra che è disposta a bere l'olio di ricino piuttosto che aprirsi ai diritti civili. Comunque le cose si muovono e succede che se nel frattempo De Magistris se ne va da Napoli, perché se ne deve andare, lo cacciano eccetera, Forza Italia ha la carta vincente per dare un sindaco a Napoli, volendo anche il presidente della regione nuovo, squillante per la regione Campania, e niente di meno è Michele, come si chiama? Cecchi Paone, Francesco Cecchi Paone, Alessandro Cecchi Paone. Ecco, Alessandro. Ho sbagliato tutto il calendario dei santi, però erano arcangeli, no? Partito da Michele. Allora, Alessandro Cecchi Paone era un guerriero. Viene, insomma, è la carta segreta per vincere questa campagna elettorale. Ma tu davvero pensi questo? Sì, però sai perché c'è la prova del 9. La prova del 9 consiste nel fatto che Berlusconi Berlusconi dà un cerchio alla botte e un cerchio a se stesso, non potendo darsi una botta. Un cerchio alla testa. No, no, un cerchio a se stesso. La testa, non potendo darsi una botta, perché ad Alemanno, che l'ha incontrato ieri, e lo racconta c'è bene il nostro Balzac, che si firma con lo pseudonimo di Carmelo Paolo su Repubblica, gli ha detto: no, lascia stare quello che dice Francesca Pascale. Ma la prova del 9 è stata quando, proprio alla Biennale dell'Antiquariato, quando gli hanno offerto un quadro con delle figure femminili, Berlusconi ha detto no, basta con le donne. E quindi ecco quale sarà il motivo forte, quale sarà il motivo fondante della nuova Forza Italia. Ascoltate. Ragazzi, come si sta bene fra noi, fra uomini, ma perché non siamo nati tutti in pilocchi? La Bibbia, la pubblicità, amici miei. Mix 24. Cazzoniere. Il giudice era uno scimmione della razza dei gorilla, un vecchio scimmione rispettabile per la sua grave età, per la sua barba bianca e specialmente per i suoi occhiali d'oro senza vetri che era costretto a portare continuamente a motivo di una flussione d'occhi che lo tormentava da parecchi anni. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Ancora una bolla, Mario. Vai. Intanto vi aspettiamo. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot. Ritmo piritollo. No, questi piritolli non lo possono ballare. Vai. Poveretti, non stai scherzando. Reddit, che cos'è? È un social network, aggrega notizie da varie fonti, è molto molto bello nell'idea e anche nell'esecuzione, e sarà uno dei prossimi fenomeni di Wall Street, Giovanni. Per ora la bolla in arrivo. Per ora sì, è una di quelle cose che dice, moltiplicatori giganteschi. Va, no? Bene. Cresce, raccoglie soldi, ha appena incassato 50 milioni di dollari, la sua valutazione attuale, pensa, è già di 500 milioni, e tra i finanziatori c'era appunto Snoop Dogg, che è una star del rap mondiale. Ancora un salamino. Spegniamo la musica perché non si tratta di un salamino. Luca Di Pietra, 39 anni, appuntato dai carabinieri, sposato con due figli, è morto sulla propria gazzella inseguendo i ladri. È successo a Pieve Porto Morone, tra Piacenza e Pavia. È morto facendo il proprio dovere e non c'è stato per lui nessun cordoglio corale, nessuna fiaccolata, nessun onore dunque da nessuna fornace del pensiero ufficiale. Leggo adesso le righe perfette di un articolo di Giacomo Schiavi oggi sul Corriere della Sera. Le alte cariche dello Stato dovrebbero sapere come si vive fuori dal palazzo, dagli studi televisivi. La precarietà aumenta la paura e la sicurezza resta affidata a uomini che ogni giorno rischiano la loro vita per salvaguardare la nostra. E succede che qualcuno di loro non rientri a casa dalla moglie e dai figli, e non possiamo considerare ciò normalità. Bellissimo pezzo. Grande Gian Giacomo. Sì. Oggi raccontiamo per la storia, dopo il giornale radio, raccontiamo la storia di uno degli uomini di Hitler, faremo una serie, il capo dell'aviazione del Terzo Reich, Hermann Göring. Per noi giovani luogotenenti era un idolo, un esperto pilota di caccia, un eroe della Prima Guerra Mondiale. Lo adoravamo, ma poi le cose sono cambiate. Pietrangelo Buttafuoco, l'ultimo tuo libro si chiama I cinque funerali della signora Göring, un romanzo che racconta di questo amore incredibile tra Göring, appunto, e Karin von Kanzow, una bellissima donna svedese, una storia vera. Ma perché questo amore è speciale? È speciale perché è la storia di una donna con un figlio di 8 anni che ha un suo destino già segnato, tranquillo, che si imbatte in un ragazzo giovane, bello, un eroe della prima guerra mondiale, niente meno che l'erede del barone rosso, e che decide di vivere con lui e di lasciare tutto. Fu un grande scandalo. Ecco, era naturalmente Marina Milone che racconterà la storia di Göring. Alla fine, questo pezzo brandello di intervista registrata con Pietrangelo Buttafuoco, che ha scritto appunto un libro intitolato I cinque funerali della signora Göring. Ma intanto Andrea da Bergamo per il canzoniere. Andrea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dice la risposta per il canzoniere? Allora, si tratta del Pinocchio di Collodi. Bravo! Le avventure di Pinocchio. Va bene, indovinato. La prendiamo per buona. Da dove scrive? Sì, da dove telefona? Da Bergamo? Da Bergamo, sì. Ma è bergamasco lei? Beh, io sono un po' trapiantato. Sono calabrese, ma sono nato a Bergamo. Ah, e cosa fa a Bergamo di bello? Sono un informatore medico. E a casa o in macchina? No, sono in macchina, sto lavorando, sto andando in un ambulatorio a fare il mio lavoro. Allora complimenti davvero, ha vinto. Grazie. Intanto c'è qualche ultima notizia, Mario? Allora stavo esattamente guardando questo, e c'è un agguato nell'Agrigentino di mafia, però solo un ferito. E in più, se ti interessa, per la storia delle sanzioni, abbiamo, questa è abbastanza piccola però significativa, la Russia ha chiuso il programma di scambio con gli studenti americani. Ha chiuso il programma? Sì, non si può più. Questa lotta che comincia a essere seria. Sì. In Italia solite notizie, criminalità, cose di cronaca. Vabbè, questa invece è una notizia che mi sembra. All'estero succedono cose che mi sembra importante. Piuttosto interessanti. Anche se sono piccole, però hanno sempre un significato. Allora, quindi chissà se aprirà Italia a Mosca a questo punto. È quello che diceva Farinetti. Non so. È così. Posso dire una cosa su Pinocchio? Sì. Pinocchio è un libro fondamentale che non viene insegnato a scuola, ovviamente. È uno dei libri, forse il secondo dopo la Bibbia, più venduto e tradotto nel mondo. Pensa, e a scuola non te lo fanno poco, vedere, poco. Leggere.